c'è un motivo per amarmi. Se vuoi fidati, chiedimi tutto, e se vorrai falla a bassa voce oppure parla con quegli occhi. Sarà più semplice se sarai sincera, tutto sarà sempre semplice. Ti chiedo un favore, se vorrai allontanati da me, vorrei sentire la distanza e capire se ho compreso. Una vita in due ti parlo solamente per paura della solitudine. Concediamoci del tempo per rincontrarci, e se fiamo di ricordare ci incontreremo, e saremo più leggeri, e saremo più leggeri, e saremo più leggeri, e saremo più leggeri. Non c'è meraviglia se non ti muovi, e tu stai ferma lì ad ascoltare le tue battaglie.